fatto from disco to disco, ballando in ognuno, come ha fatto i Whirlpool Productions, ecco, from disco to disco. Il che ci apre questo lunedì sera, lunedì 30 settembre. Allora ragazzi, siete pronti per l'ultima volta a quest'ora? Ecco, hello everybody, this is Fergal Kavanagh, siete benvenuti su Radio Club 91, c'è Gino Palombo on controls, sì, avete capito bene, per l'ultima volta, essendo fine settembre, delle cose cambieranno. Io mi prendo una piccola pausa, ma ci risenteremo sulla stessa frequenza in un altro orario, non vi preoccupate. Una piccola pausa però mentre vado a trovare i miei in Irlanda, mi sembra giusto. Dai, parliamo della musica, parliamo di voi. Voi sapete bene, 335-537-9191 il nostro numero di SMS per mandare i vostri messaggi, e anche attivo il nostro email diretta a radioclub91.it, quindi email anche SMS 335-537-9191. Voi siete i protagonisti. La voglia scalpitava, strillava, tuonava, cantava da notte fonda nel petto di Paola. Oh Paola, la noia quella sera era troppa e cercava, chiamava 200 principi e invece lei era la dama del castello. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di te per la gran solitudine. Forza, amati per questa sera, che domani torni in te, ma non ti diverte perché vuoi qualcosa di più facile. La timidezza c'era ma spariva, scappava, di notte si dileguava dagli occhi di Paola. Oh Paola, giocava a rimpiattino, nascondeva e mostrava, cercava il cacciatore e invece lei era la preda dentro il bosco. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di te per la gran solitudine. Forza, amati per questa sera, che domani torni in te, ma non ti diverte perché vuoi qualcosa di più facile. E non riposi più, solo lo schermo è tu, e provo pena, maschera e anima. Posso dimostrarti adesso che ha ben altre forme il sesso. La voglia scalpitava, strillava, tuonava, cantava da notte fonda nel petto di Paola. Oh Paola, la noia quella sera era troppa e cercava, chiamava 200 principi e invece lei era la dama del castello. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di te per la gran solitudine. Forza, amati per questa sera, che domani torni in te, ma non ti diverte perché vuoi qualcosa di più facile. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di te per la gran solitudine. Forza, amati per questa sera, che domani torni in te, ma non ti diverte perché vuoi qualcosa di più facile. Il tuo è un rosso relativo. Club 91. Oh, The Sound of Mooney, un grande successo per loro, il Mooney, questo gruppetto di DJ che hanno come ospite Monica, cantando con loro Dove, il titolo di questo pezzo, veramente un successo internazionale straordinario per questi italiani. E la musica italiana continua adesso su Radio Club 91, perché siamo arrivati al momento della richiesta, alle ore 21 e 20 minuti. Allora 335 537 91 91 91, il nostro numero di SMS. E poi è arrivato questo messaggio: ciao Club 91, sono da casa Giove e vorrei dedicare alle due persone più importanti della mia vita una bella canzone. Allora, Moni e Gabri, ecco, quindi questo non è fermato agli amici di casa Giove. E poi a chi ci ha telefonato alle 081 497 1191, ti accontentiamo subito. Tu volevi sentire il grande napoletano Gigi D'Alessio? Allora, here he is, eccolo qua con Miele, The Sound of Gigi D'Alessio. Chi l'avrebbe detto che sarebbe diventato così incredibilmente popolare in senso la musica pop? Perfino a io piace questo pezzo. Grande Gigi D'Alessio, Radio Club 91, Miele! Una come te è l'ingranaggio esatto che sta bene a me, caratterino acceso. Una come te è un dosatore giusto, zucchero e caffè. Sai darti bene quando leggi che il tuo segno vincerà. Una come te è un'equazione al cubo, logica per me, ma da studiare bene. Una come te è una poesia d'amore dedicata a me. Come sei dolce quando baci, sembra tutto come il miele che si attacca al cuore ma si scioglie al sole quando vuoi di più. Miele che poi diventa sale se siamo in riva al mare e un'onda ci accarezzerà. Miele, resta il tuo sapore quando devi andare, quando non ci sei. Miele, sei bella da morire, ma hai fatto innamorare col gusto che c'è in te. Te. Una come te, la grinta di un felino, hai graffiato me. Che splendido sorriso, una come te, pulita come l'aria, acqua fresca che diventa dolce quando baci e tutto intorno sa di miele che si attacca al cuore ma si scioglie al sole quando vuoi di più. Miele che poi diventa sale se siamo in riva al mare. Il tuo sapore quando devi andare, quando non ci sei. Miele, sei bella da morire, ma hai fatto innamorare col gusto che c'è in te. Miele che poi diventa sale se siamo in riva al mare. Contattaci per la tua richiesta. Per la tua richiesta, Radio Club 91. Chiama ora 081 497 1191. Yeah. She said, ecco i Tattoo, un grande, grande hit per loro, all the way from Russia, all the things that she said on Club 91. Allora ragazzi, ho ricevuto questo barzelletta presso l'email e ve la dovevo leggere perché a me ha fatto ridere, spero proprio che funzioni pure per voi. Ci sono tre signore anziane, stanno parlando tra di loro. Uno dice, la mia memoria è rovinata, intanto stamattina ero sulle scale e non mi ricordavo se dovevo salire o scendere. L'altro dice, ah lo so, è terribile, stamattina mi sono svegliato e non sapevo se era il momento di andare a dormire o di alzarmi dal letto, beh, perché la memoria è terribile. Mentre la terza signora guarda intorno e dice, ma la mia memoria è perfetto e rimarrà sempre così, tocco ferro, e quindi bussa sulla tavoletta a ferro, poi all'improvviso sorpresa gira e dice, ma chi è alla porta? Vabbè, a me è piaciuto molto, eh? Comunque, here we are, Local Love in Paris on Radio Club 91, dai consoliamoci con la musica, eh? We'll be right back. Lobo! Molto pulito, diciamo, intanto è vegetariano, non bevo l'alcol, eccetera. Quindi mi sono molto sorpreso quando ho letto che si drogava a 10 anni. Intanto in questa intervista americano ha ammesso che all'età di 10 anni, insieme ai suoi coetanei, tra quali sua sorella pure, prendeva l'alcol, rubavano ai suoi genitori pure l'alcol, i soldi, tutte queste cose. Però poi a 13 anni si è reso conto che si sarebbe morto se continuasse così, e quindi ha smesso di bere, di drogarsi e di mangiare la carne. Ecco, tutto cambiato all'età di 13 anni, ma un pazzo veramente Moby. Allora, George Michael in America, Shoot the Dog. Il respiro non mi ritorna più.

chi l'avrebbe mai detto? Ci sono io e Gino qua facendo questo balletta di Last Ketchup a Zerie, ma che divertimento proprio, ragazzi. E poi sapete di che parla questo canzone? Immagino di no, perché sembrava che erano tutte parole messe un po' insieme così, però la verità è una canzone molto molto serio. Praticamente vi rende conto quando andate in discoteca, andate verso il DJ e dite: io voglio sentire quella canzone, non mi ricordo esattamente come si intitola, però va un po' le canti un po' con queste voci un po' ridicole, queste parole così. È esattamente quello che stanno facendo Azerie, un ragazzo che prova a spiegare al DJ che brano vuole sentire. Ecco, siete tutti un po' più felici a sapere questa cosa, eh? Allora, Radio Club 91 al 50 minuti dopo le 21, cioè mancano 10 minuti alle 10 di sera. Buonasera Beppe, che mi hai scritto alle 335-537-9191. Mi hai salutato, mi hai ringraziato, hai anche salutato a Gino. E non ti preoccupare, ti accontentiamo tra circa 20 minuti, quindi rimani con noi. Poi c'è questo chi mi ha scritto, non ha firmato, ha detto che una canzone di Ligabue è indispensabile e mi voleva fare i complimenti per la voce, è sensualissima. Grazie, grazie anche a te. Purtroppo è l'ultima volta che le senti in questa fascia, almeno di sera. Però adesso sulle 335-537-9191 accontentiamo chi voleva sentire Ligabue, sì. Però è Antonio dal Borgo Sant'Antonio, volevo sentire Eri Bellissima. Com'eri, pensare che ancora vivi, voglio pensare che ancora mi ascolti e come allora sorridi, e come allora sorridi. Desert Rose, una canzone meravigliosa che adesso abbiamo messo per accontentare a Giulia e Antonio, quindi buon ascolto a Radio Club 91 tutti quanti. Allora, siamo ritornati dopo il news, ore 22:08, ultima ora insieme. Sono Fergal Kavanagh, ecco l'emozione che mi prende. Fergal Kavanagh voce, Gino Palombo on controls, insieme fino alle 23. Allora ragazzi, un po' di novità, notizie per voi. Magari siete un po' stanchi, già tornati al lavoro, avete avuto solo 4 settimane di ferie, avresti voluto avere molto di più. Allora pensa a povera Alicia Keys. Alicia Keys adesso si è preso le ferie, e quanto dureranno queste ferie? Dureranno bene 22 mesi. Lei dice: sono anni che non prendo una vacanza e quindi voglio fare questa vacanza adesso. 22 mesi si è concesso. Una pazza proprio. Comunque ecco Alicia Keys insieme ad Eve, Gangster Loving, e con questo contentiamo a Pepe. Ciao. Eh ecco, noi di Radio Club 91 siamo sempre the first till number one, perché questo traccia I Love Rock and Roll di Britney Spears le stiamo suonando ormai da mesi, però soltanto adesso è uscito in singolo, ragazzi. Ecco, siamo proprio the best Radio Club 91. E poi un po' di notizia triste per Britney Spears: sembra che è già finita la sua storia insieme a Mark Terenzi dei Natural. Allora, è sempre stata una voce che erano insieme, non è mai stato confermato, però ormai il loro rapporto è definito aperta. Allora, quindi Britney Spears è libera di nuovo. Ah, ci fa piacere, giusto così, una bella ragazza così giovane pure. Allora, siamo arrivati al momento della richiesta. 335 537 91 91. Buonasera, chi mi ha scritto dice che sono molto volevi sentire un pezzo di Ligabue. Mi dispiace, abbiamo messo Ligabue poco fa, un altro brano, è vero, però non possiamo mettere la stessa artista due volte. I'm very very sorry. Allora, anche Jack, grazie del tuo messaggio. Tu sei proprio un fan di Truth Hurts e poi un fan di Club 91 pure, e dice forza Napoli e forza Irlanda. Grazie, sono d'accordo con te su tutti e due cose, però adesso contentiamo. 335 537 91 91, Giuseppina, che è un grande fan dai Rolling Stones e voleva sentire il nuovo singolo. Quindi adesso, dopo 40 anni di attività, sono ancora insieme. Here's the Rolling Stones e il loro nuovo Don't Stop. Per la tua richiesta, Radio Club 91. Chiama ora 081 497 1191. Ascolta, cerco poche parole per spiegarti cosa provo. Sai, da quando ti ho vicino non mi chiedo mai se ce la faccio o no. È questo che mi dà. Dimmi che sarà così. faccio sempre se così vado. Ed è il giorno che vivremo io e te, te lo dedicherò, mi credi? Chissà questo da quanto, per quante vite. Non immagini poi quando tu mi guardi cosa provochi in me. Non sai, non sai, non sai. E forse anche per il tuo lavoro. Lo so, mi spiace, ma vorrei che tu rimanessi sempre qui, e qui vicino a me. Le persone, i personaggi e i miti del mondo della moda. Fashion. Fashion. Le nuove collezioni. Fashion. Fashion. La moda in TV. Ogni mercoledì alle 23:30 su Telelibera. Fascinated. Oh yeah. I'm fascinated. Jericho, i Raven Maze con Fascinated, oh, the sound che ci carica questo lunedì sera. Allora ragazzi, veramente è fascinating, una cosa che ci fa pensare. Stanno pensando di fare un'altra versione, cioè un sequel di un film molto molto vecchio. Sto parlando di Grease, conoscete benissimo questo Grease, no? Summer Nights, eccetera, Summer Loving Happens So Fast. Sì, John Travolta e Olivia Newton-John faranno questo remake di Grease. Sarà numero 3, infatti, perché Grease 2 è già uscito insieme a Michelle Pfeiffer. Ma questo Grease 3 riunirebbe, ecco, John Travolta e Olivia Newton-John. Sarebbe tipo una reunion di scuola dopo tutti questi anni che si incontrano e tutti quanti vedono che stanno facendo nell'anno 2002, o sarà ormai l'anno 2003. E quindi questa è una cosa incredibile, pensando a John Travolta e Olivia Newton-John insieme di nuovo a cantare. E a proposito di film, chi ha visto Spider-Man, alzate le mani tutti quanti che ha visto Spider-Man. E pure su quello stanno lavorando, sul sequel Spider-Man numero 2. Nessun sorpreso lì, ma chi sarà il titolo, come sarà la canzone? Number 1 avevo questo, Hero. I'm so high, I can hear ever. I'm so high, I can hear ever. Oh, but heaven, no heaven down in me. And they say that a hero can save us. I'm not gonna stand. A me questo Ingrid sta dicendo tu hai fottu, se ho capito bene vuol dire tu sei proprio fa... non si dice. Comunque ragazzi, sì, è il momento di salutarvi, sì. Allora io adesso torno alla serata libero davanti al televisore, o esco per un paio di birre, eccetera, il che vuol dire che non sarò più nella vostra compagnia la serata. Mi dispiace tantissimo, veramente, però non vi preoccupate, faccio questo salto in Irlanda con come avevo detto all'inizio del programma, e poi ci sentiamo tra un 15 di giorni, forse 20 giorni intanto, su un'altra fascia, però tutto sarà rivelato un po' più di là. Allora devo ringraziare a Gino Palombo and Controls, voglio anche ringraziare a tutti voi che mi avete seguito. Allora un paio di nomi, soltanto un paio. Allora Sue, thank you for listening, continue listening on www.radioclub91.it. Maria, grazie del tuo messaggio al 335 537 91 91, bellissimo la foto pure che mi hai mandato, e grazie degli auguri. E anche Donatella, stiamo scambiando email da un po' di tempo, fergal@radioclub91.it è mio indirizzo. Tu volevi sentire un bel pezzo di Peter Gabriel, e quindi prima di chiudere tutto ti accontentiamo. Allora buonanotte a tutti, veramente spero che tutto vada bene per tutti quanti. Ecco, basta, Fergal Kavanagh vi saluto, buonanotte con Peter Gabriel, The Barry Williams Show, ciao! One man at the window, one girl at the bar, saw the look of recognition when they know just who you are. Seen you on the TV, I seen you on that show, you make the people crazy, and then you let them go. Before the show we calm them, we sympathize, we care, and the hostile folk we keep apart till the red light says on air. Did you see our leather lovers all tied up to the chair? Did you catch those child molesters? No one else goes there. What a show! The more you